ed è volto a tutti, è totalmente gratuito, aperto a tutti, e devo dire che l'annuncio di questo percorso che abbiamo deciso di chiamare nel nostro interesse, perché poi è promosso proprio dall'esigenza, da quello che è l'imperativo oggi per la famiglia italiana e non, che è quello del risparmio. Risparmio ragionato, perché io credo che una famiglia oggi debba ragionare proprio sullo spreco, perché lo spreco è la molla che fa scattare il non risparmio. No, se voleva concludere il suo discorso, allora mi intrometto. Famiglie alle prese, presidente Pratici, con la rata del mutuo, strette dai prestiti, bollette ed estratto conto incomprensibile. Queste sono un po' le problematiche che oggi abbiamo un po' tutti. Mi chiedo se abbiate avvertito una situazione di disagio economico fra le famiglie del vostro comprensorio, della vostra zona, al punto da rendere necessario un percorso di questo tipo, a prescindere, diciamo, dalla missione della vostra organizzazione, a prescindere, come dire, diciamo, dall'esigenza generale di saperne sempre di più su questi argomenti. Ma vedi, dottoressa, lei ha detto molto bene e carinamente mi ha chiamato presidente Pratici. Io sono prima di tutto mamma, Marina Pratici. È una donna pratica. Pratica e mamma, quindi insomma facente parte di un nucleo familiare, e quindi ben vivo proprio direttamente quello che è il bisogno per eccellenza oggi, cioè quello di risparmiare, perché insomma giustamente fra rate di mutuo che so io, macchina, figli che vanno, come nel mio caso a breve all'università, anche se gli stipendi sono due, in quella che è la microeconomia familiare necessita il risparmio, credo che sia l'imperativo. E proprio lei diceva il fatto del se abbiamo avvertito, sia come associazione genitoriale che accorpa circa 300 nuclei familiari con quali associati, ma soprattutto come famiglie, certo che avvertiamo il bisogno del risparmio, si impone, è un imperativo. E proprio facendo leva sul bisogno, su quella che è la richiesta, diciamo così, di aiuto, è nata l'idea di questo corso che poi si espliciterà attraverso l'incontro, però io sottolineo questo, quello che sarà il fondante del corso, che sarà del percorso meglio ancora, sarà proprio fondato, basato e focalizzato sull'interazione, nel senso che non ci sarà il grande esperto che userà una terminologia lontana da quella che è il quotidiano, l'ordinario della famiglia, ma che si esprimerà proprio in modo semplice e quindi accessibile e fruibile a tutti gli ascoltatori, e giocato appunto, come dicevo, sull'interazione, quindi domanda risposta, che poi il grande convegno dove c'è l'attore di fama tante volte poi si esprime attraverso una relazione che lascia un po' così, come posso dire, con la mare in bocca, perché tutto non cogli, tutto non fai tu. È perché è molto difficile, questo glielo dico anche per esperienza personale, presidente Pratici, continua a chiamarla così molto spesso, anche quando per lavoro si deve sempre parlare di questi argomenti, renderli molto semplici, esatto, per tutti è esatto, molto difficile, lo dico anche io, che questo è un impegno che appunto abbiamo ogni giorno nei nostri contenitori economici, però qualche volta proprio si diventa inevitabilmente autoreferenziali, è molto difficile, per cui capisco anche che però dall'altra parte ovviamente c'è gente che fa lavori completamente diversi e che ha bisogno invece di avere terminologia assolutamente semplice e soprattutto ha bisogno molto spesso di avere gli strumenti per interfacciarsi con chi ne capisce di più. Non è detto che io debba saper leggere dalla A alla Z tutto l'estratto conto, ma almeno capire quegli elementi che non capisco e poterli andare a chiedere con una certa, come dire, proprietà, con padronanza, non però trova? Ma la dottoressa ha ben inquadrato quello che poi è il problema. Una famiglia normale, come la mia ad esempio, come quella della presidente Pratici, ha queste difficoltà, per questo noi abbiamo chiesto a questi esperti, io li chiamo chi saranno? Non ci può dire niente, di usare un linguaggio semplice, linguaggio normale, perché sia effettivamente comprensibile, fornendo così gli strumenti reali per giungere poi a una comprensione plenaria di quel che è appunto l'estratto conto o quant'altro. Ecco, per esempio, per capire l'estratto conto che avete chiamato, vi siete rivolti ad associazioni dei consumatori, guardi, a professori universitari, perché lo scopo è a direttori di banca? Perché poi nel territorio è a quella la persona a cui ci si rivolge, no? Ecco, dicevo appunto che lo scopo nostro è quello di mettere in gioco, in questo caso in percorso, per rifarsi appunto al nostro percorso, tutte le realtà attoriali del nostro comprensorio, quindi non chiamando l'esperto che viene butto là da Roma o da Milano, ma chiamando, che so io, il direttore di filiale della banca operativa sul nostro territorio, perché poi il bisogno grande è quello di chiarire quali sono i bisogni localmente, localizzarli. La nostra è un'iniziativa che parte appunto da una, come lei ha detto, una cittadina di 11.000 abitanti che ha queste esigenze, che ha questi bisogni primari. E poi sarebbe bellissimo vedere che questa iniziativa nata localmente avesse poi un dispiego a livello più vasto, sempre tenendo conto di quelli che sono i bisogni di quel territorio, perché è così che bisogna muovere. Esattamente. Il bisogno familiare, ad esempio, di Aulla, della mia cittadina, è differente, differisce totalmente, io credo, da quello di una famiglia, magari con lo stesso reddito, con lo stesso numero di figli, che però vive in un'altra area. Certo. Quindi, io a Milano, o a Roma, o in un piccolo paese del sud, dove sono le realtà attoriali che fanno azione finanziaria, commerciale o quant'altro di quel territorio, perché parliamo di un territorio. Presidente Pratici, non tutti abitano da Aulla, lei ce lo diceva, nelle zone limitrofe, quindi non tutti coloro che ci ascoltano, che stamattina magari si saranno sensibilizzati di più su questo argomento, potranno partecipare, però so che lei, come diceva prima, è una persona molto pratica e ci può dare anche indicazioni di buon senso. Cosa può fare una famiglia per per migliorare la sua preparazione, essere in grado di interagire meglio con la banca piuttosto che con l'azienda a cui paga il gas e la luce, con chi gestisce il proprio risparmio? Chi non aderisce a questa iniziativa e non può farlo per varie ragioni alla vostra organizzazione, da dove comincia? Cosa può fare? Ma guardi, io le posso parlare di quello che abbiamo fatto noi. Io sono una famiglia, prima che la presidente di un'associazione genitoriale, ed è proprio, ecco, il confronto con le altre famiglie, quindi formando questa, mi passi l'espressione, questa rete aggregativa di famiglie, che poi il classico e antico e forse un po' desueto passaparola, io credo che abbia un'importanza invece altissima, perché proprio la testimonianza di chi condivide il tuo vissuto quotidiano e ti dice: guarda, io ho fatto così per arrivare a conoscere questo, per informarmi su questo, mi creda, è importantissimo. E paga magari molto di più, non vuole essere lesiva la mia considerazione, è soltanto una considerazione mia e personale, ecco, diciamo, paga molto di più in termini proprio di ricaduta concreta, reale, sul tuo vissuto della grande campagna a livello, dico io, nazionale o internazionale. Quindi banalmente, la butto là, Presidente, piccole riunioni di condominio, familiari, magari possono aiutare qualche volta nella condivisione dell'esperienza a capire come risolvere un problema, perché magari un'altra famiglia c'è già passata. Esatto. Io penso che la coesione sociale fra chi fa associazionismo oppure non lo fa, ma si unisce, si mette in rete, ed è questo anche importante, perché oggigiorno l'aggregazione è una cosa che si dice ma non si pratica, serva moltissimo, perché poi ci sono tutti questi piccoli consigli che poi hanno una ricaduta proprio utile, e parliamo sempre di risparmio, che vengono passati poi da mamma in mamma, da perfetto. papà. Presidente, ecco. Pratici, io devo salutarla, non ho più tempo, però per tutti coloro che volessero informazioni sulla vostra iniziativa si può andare sul sito dell'associazione genitori, la vostra, certo, federazione nazionale? Federazione nazionale genitori Ollust, e noi facciamo parte come associazione locale operativa in Aulla, provincia di Massa Carrara, sul sito dell'associazione regionale genitori AGE Toscana. Benissimo, se qualcuno venisse in mente di un pochino studiare il vostro modello e magari replicarlo utilmente, esportarlo. La ringrazio, esportarlo. Grazie, buona giornata. Buonissima giornata a lei, grazie a presto. Voi. Buongiorno, buongiorno. Caro Alessandro, e noi eccoci qua. Oggi ritorniamo in banca. Bene. Sai, esatto, perché praticamente Occhio la grande Obama, banca. Perché? Esatto. Sai che allora c'è la. Esatto, a parte quello, c'è la class action che è partita da poco. In realtà, un gruppo di risparmiatori ne ha già vinta una in tribunale di Milano su Lehman Brothers. E oggi cercheremo di capire, insomma, cos'è successo. Alle 12. Sì. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: un'auto con esplosivo e armi a bordo ieri è stata fatta ritrovare al passaggio della visita del Presidente della Repubblica Napolitano a Reggio Calabria. Per alcuni investigatori si tratta di un segnale allo Stato, per altri solo di un caso. Il Presidente americano Obama contro le banche. Nessun americano, ha detto, dovrà mai più essere ostaggio di una banca troppo grande per fallire. Obama ha prefigurato un ritorno a rigide separazioni tra attività di banca commerciale e quella di banca d'affari. Una nuova ondata di scandali legata a fotoricatti, questo promettono alcuni fotografi di gossip che assicurano ci sono foto compromettenti che coinvolgono anche politici. Uno di questi avrebbe pagato 300.000 euro per non far pubblicare le foto che lo riguardano. Sulla vicenda indaga la Procura di Milano. Infine è pronto il ricorso dell'Italia contro la sentenza con cui la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha imposto la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche. Lo ha annunciato ieri sera il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta. E allora, alle 8:34 minuti parliamo nel nostro sondaggio di oggi di politica, di Emma Bonino e della sua candidatura alla Regione Lazio per il centro-sinistra. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Vi chiediamo la scelta giusta, la scelta che vi piace, la candidatura del PD nel Lazio della radicale Emma Bonino, può piacere o no? Ma certo, nei confronti di Emma Bonino da alcuni giorni si sta scatenando una campagna di stampa molto molto dura. Ieri Libero titolava presidente e abortista e pubblicava una vecchia foto del 75 che ritraeva Emma Bonino intenta a praticare un aborto illegale. Oggi gli scheletri della Bonino, ancora Libero, il processo alla radicale per procurato aborto non si è mai celebrato, si fece leggere in Parlamento e fu salvata dall'immunità. Il caso di Emma l'abortista. Sul Foglio Giuliano Ferrara ieri l'ha definita il diavolo, un paio di giorni fa su Avvenire la sua candidatura uno schiaffo alla comunità cristiana. Insomma, che sta succedendo? Intanto saluto Mario Secchi, buongiorno, ben ritrovato Mario, vice direttore di Libero. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, che è successo a Libero? Che vi siete messi in testa? L'abortista Bonino. Non... di raccontare semplicemente la storia di Emma Bonino, cioè quello che si fa in tutte le democrazie e che fanno tutti i giornali, anche quelli di stampo anglosassone, che separerebbero virtualmente i fatti dalle opinioni, quando c'è un candidato importante. E siccome la Bonino è candidata alla Regione Lazio, allora vale la pena di raccontare il suo curriculum, che cosa ha fatto dal suo ingresso nello scenario della politica italiana fino ad oggi. Molto semplice. Oggi, tra l'altro, dove sia lo scandalo. Tra l'altro oggi Belpietro dice è una storia da raccontare, mentre voi ospitate diciamo un botta e risposta. Filippo Facci, che è sempre un commentatore di Libero, dice è difficile spiegare la vergogna che ho provato ieri nel leggere il giornale per cui scrivo, insomma, questa foto pubblicata, questa Emma Bortolini. Che c'entra questo con la candidatura nel Lazio? C'entra, Filippo, non si fa una ragione di un fatto in fondo, ripeto, semplice, cioè quello di raccontare appunto i percorsi personali, biografici di un candidato. Voglio dire, di Barack Obama, fate le debite proporzioni con la Bonino, si è raccontato e cercato tutto. Perché? Perché era candidato a una carica importantissima, che era quella della guida del popolo degli Stati Uniti. Dico bene? Sapete come si svolgono? Sì, in America sì, si va a vedere anche il certificato, lo stato di salute, tutto. Si va a vedere dove i nonni, i parenti, gli zii, i nipoti. Tutto. Di Berlusconi si guarda tutto, come sapete. Perché della Bonino, no? Allora, con questo interrogativo voglio salutare l'onorevole Paola Binetti del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. E Mario, a tutti gli ascoltatori. E Mario Staderini, che è segretario dei Radicali Italiani, che ritroviamo. Ben ritrovato, Staderini. Buongiorno a voi. Allora, Paola Binetti, lei ha detto chiaramente: se vince la Bonino, io esco dal PD. Questo lo conferma? Fermo, ma voglio dirle una cosa di più, sì, però. Che non è questione che vinca la Bonino, è questione che questi mesi che ci separano, oggi sarà il 22 di gennaio, circa due mesi al momento delle elezioni, è estremamente importante che gli iscritti del Partito Democratico e gli elettori potenziali del Partito Democratico, che sono molto di più, si rendano perfettamente conto, soprattutto nel Lazio, chi è il candidato a cui in questo momento il Partito Democratico delega. E secondo lei, il candidato? Il candidato. Lei sa meglio di me che in atto una campagna mediatica. Lei ha citato soltanto le fonti critiche rispetto ad Emma Bonino, ma per esempio non ha citato questo filmato che va in onda su YouTube, questo di Emma Tart, sì, nel quale con l'impatto chiaramente che dà l'attualità, la sintonia col film che c'è in giro. Tutto quello che lei vuol dire, però i capisaldi della storia politica di Emma restano ancora aborto, divorzio, antiproibizionismo, con tutto quello che questo comporta, con tutte le implicazioni che questo può avere sulla vita, ecco, ma sulla lei, famiglia, e questo no, e lei, lei lo sta dicendo chiaramente, adesso sentiremo Staderini su Emmatar, per carità, però Binetti le chiedo che ne pensa di quello che fa che ha fatto l'operazione anche di Libero, cioè di far sapere quella foto di Emma Bonino che pratica un aborto illegale nel 1975. Oggi Filippo Facci scrive: ho capito dove si vuole arrivare a definirla assassina. Emma Bonino è un'assassina secondo lei? Guardi, dipende da quali significati lei mette nelle parole. Per me, lei sa perfettamente che sono un antiabortista e che quindi l'aborto rappresenta la soppressione di una vita umana, punto. Però le voglio dire che a me quello che più mi colpisce di quella immagine, quasi le direi, è l'abuso di professione. Voglio dire, è quasi la ostinazione ideologica in un impegno che ti fa andare oltre quelli che sono gli aspetti concreti della competenza. Ma lei la conosceva quella foto, se la ricordava? No, non me la ricordavo sinceramente, però io ho vissuto quel periodo, sono praticamente coetanea di Emma Bonino, e ho vissuto quel periodo stando sempre dall'altra parte delle sue battaglie, perché mentre c'era una battaglia che in qualche modo incalzava fortemente questo tema, come dire, sottolineando tutti gli aspetti, diciamo, della degenerazione dell'aborto letta dal punto di vista, che ne so io, delle mammane, degli aborti clandestini, dell'aborto in cui non solo perdeva la vita il bambino, ma molte volte si esponeva davvero al rischio della vita anche la madre. Sì. Cioè, c'è sempre questa capziosità, no, nell'argomentazione, che è quello di dire salviamo la madre, ho capito? Ma quando il costo di tutto questo è la perdita del bambino, ma questo non voglio dire, non voglio tornare sul tema dell'aborto. No, ma questo capisci che però soltanto dire qual è l'argomento, lo stile, sì, sì, argomentativo. Sì. Ma vogliamo, lo sentiamo. L'argomentativo è: rimuovo la nozione e cavalco quel frammento di bene che ci potrebbe essere tema salute della donna. Ma se la domanda io la pongo: sei a favore o contrario alla salute della donna? È chiaro che è mal posta, è faziosa, è insidiosa, c'è una captatio benevolenzi, sì, molto, con molta pruderia sotto, no? Insomma, ma da questo io vorrei andare da Mario Staderini. Allora, Staderini, in una elezione regionale, come in tutte le elezioni, si dovrebbe parlare di, non so, lavoro, salari, la sanità, che nel Lazio sappiamo è disastrata, di cose concrete. Oggi il Foglio effettivamente va a Viterbo e, tra l'altro, forse con stupore lo stesso Ferrara, insomma, si scopre che la gente interrogata a Viterbo, città di Papi, dice: ma guardate che noi di queste cose etiche forse ci interessa meno. Allora, invece di parlare di quelle cose, si parla di aborto, eutanasia, RU486, ve l'aspettavate voi radicali? Ma guardi, per come è ridotto ormai il livello di disinformazione, di non circolazione delle idee in Italia, non solo della carta stampata, tutto può succedere. Certo, è partita una caccia alle streghe, e non a caso la caccia alle streghe è venuta proprio da chi si riconosce in un certo tipo di fondamentalismo, e magari può essere giornalistico, magari può essere di stampo clericale, che quella caccia alle streghe a volte l'ha fatta veramente, e loro sì, sono stati degli assassini a quei tempi. Io credo che in realtà si vuole cercare di far passare delle cose, e devo anche credere che magari all'americana, come ha detto il vice direttore Seghi, accadono delle campagne di stampa, ma più che delle campagne di stampa si va a indagare sulla verità, essendo seri, completi, cosa che credo non è accaduta in questi giorni. E magari proprio in quei paesi anglosassoni ci sono procedure diverse che non lasciano i giornali impuniti di fronte magari a degli errori che hanno fatto più o meno dolosamente. Filippo Facci ha detto tutto, lui si vergogna, io mi affido semplicemente al suo commento. Detto questo, Emma Bonino, ma noi radicali siamo quelli che il flagello dell'aborto illegale, quello che uccideva le persone, quello che rendeva delle famiglie intere completamente prese nel dramma di una tragedia quale quella dell'aborto, lo abbiamo noi debellato grazie a un referendum, grazie prima ancora del referendum alle battaglie dei movimenti che hanno consentito che in Italia, prima ancora che in tanti altri paesi, non ci fosse più la necessità di correre alle mammane, alle pompe di bicicletta, ai cucchiai d'oro, e oggi se si vanno a vedere i dati è praticamente un fenomeno completamente debellato, se non fosse perché ancora oggi c'è chi vuole impedire la conoscenza, l'educazione sessuale, soprattutto ad esempio tra chi? Di nuovo tra più gli umili, le immigrate che sono di nuovo portate per la clandestinità a cui sono coinvolte e ridotte agli aborti clandestini. Capisce che però si parla di questo, no? In una campagna elettorale, ma io vorrei sentire Paolo da Roma, per esempio. Paolo voterà. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, sicuramente ho poco tempo. Comunque la Bonino rappresenta un esempio di coerenza con quello che è l'esempio pratico che ha sempre dato in tutti questi anni, di moralità, di onestà, e questo è quello che secondo me il politico deve fare. Quello che dice lei è perfettamente giusto, ed ecco qui l'ennesimo esempio di distacco da quello che è la politica dalla gente. Credo che alla gente di questioni morali, etiche, religiose, no? Interessi meno che il problema della sanità, il problema del lavoro, no? Felice, sono in secondo piano le cose più importanti. Non si decide quello, su quello non è il motivo per poter andare a votare uno o l'altro candidato. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, Emma Bonino, candidata PD nel Lazio, scelta giusta. Bisogna dire che votando sul sito il 66% di voi dice di sì, una scelta comunque approvata. Sentiamo Arrigo da Lodi, provincia. Che dice Arrigo? Sì, buongiorno. Ma io mi stupisco sempre di tante cose. Al di là del fatto di essere o non essere abortisti, ognuno lì deve fare i conti con la sua coscienza. Io, per esempio, sto dalla parte degli antiabortisti, ma non per posizioni ideologiche o partito preso, per una profonda convinzione del rispetto della vita. Sì, ma il tema è, non è tanto, e questa è la sua opinione, e se questo debba decidere o se su questo si debba... No, ma come è stato deciso di far cadere Marrazzo, che poteva essere una bravissima persona, un bravissimo governatore del Lazio, perché aveva dei gusti sessuali particolari. Allora, anche lì, si poteva mandare a casa uno solo perché ha dei gusti sessuali particolari? Ci sono dei sindaci dichiaratamente gay che avranno una vita sessuale particolare, più che gusti sessuali. Capisce che Marrazzi è in una posizione anche ricattabile da quel punto di vista, no? Non è tanto, certo, io capisco che magari c'è stata anche la questione dei gusti sessuali, ma non crede Arrigo che fosse anche una questione di ricattabilità nella quale si era messo il presidente di una regione importante, quindi insomma una situazione difficilmente gestibile. È stata candidata anche per la presidenza della Repubblica ai tempi, se ci ricordiamo bene. Può arrivare, lei è disposta a qualsiasi cosa, ma allora vabbè, come tutti. Comunque Arrigo, la ringrazio. Andiamo a Stefano da Genova. Sì, buongiorno. Dica. Allora, volevo dire prima lo schifo che ho avuto ieri vedendo per caso quella pagina di Libero, è stato veramente una botta allo stomaco. La linea prende male, però adesso magari la richiamiamo, però partiamo da qui, lo schifo che ho provato, Mario Secchi, visto che abbiamo il vice direttore di Libero. Lo schifo guardare la documentazione, allora, perché ripeto, stiamo sui fatti, e se i fatti danno fastidio e suscitano clamore, vuol dire che c'è qualcosa che non va in questo paese, e cioè o che i radicali vogliono rimuovere un pezzo importante della loro storia che oggi non fa comodo alla vigilia di un voto importante, e sarebbe singolare, oppure che questo paese non ha fatto i conti neppure con questo pezzo della sua storia, e la cosa sarebbe altrettanto singolare dal punto di vista della biografia del paese. Guardi che quello che sta emergendo da questo dibattito, anche con alcuni ascoltatori eccetera, è una sorta di relativismo etico del paese, che spiega molto, anche a mio avviso, della sua deriva morale. Cioè, voglio dire, se qua si mette in discussione il fatto che nel 76 quello era un atto illegale, ed era illegale, tanto che la Bonino fu arrestata e non fu processata solo perché salvata dall'immunità, no? questo non si può mettere in discussione, non si può certo mettere in discussione il fatto, non si può mettere in discussione il fatto che la Bonino se ne vanti. E beh, voglio dire, se tutto questo non si può mettere in discussione, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, cioè farlo sapere, sappiate che nel passato, nella storia, nel curriculum di Emma Bonino c'è anche questo, voglio dire, non è solo essere stato ministro, essere stato, avete fatto questo tipo di operazione. Vediamo se Stefano, a parte lo schifo che ha provato, ci ha già detto, l'abbiamo recuperato, Stefano da Genova, sì, tolga lo schifo, sì, adesso la sentiamo, sì, poi ma lo schifo è dovuto a come è messa la notizia, no, potevano anche loro, la vedono così, la mettevano proprio come è piazzata in prima pagina. Ma non era in prima, non era in prima, anzi Belpietro oggi il direttore dice, ecco, no, sì, no, un... prima. No, ma allora, no, la foto non era in prima, oggi... Non è vero, lei ha visto male, c'era anche una foto piccola in prima pagina. Guardi, comunque Belpietro, il direttore, oggi di Libero, dice, c'è una cosa di cui mi pento, avrei voluto metterla grande in prima pagina, quindi quel giusto per dire che non si pente per niente. Comunque Stefano, usciamo da questa situazione dello schifo, vuol dire qualcos'altro? Tra il fatto che io non ho mai votato radicale, ma devo dire che sono gli unici politici che nella storia d'Italia hanno portato avanti delle battaglie di legalità e le hanno vinte, gli unici devo dire. E per cui questo, perché poi questi che adesso criticano tanto l'aborto, il divorzio, sono i primi a aver sfruttato queste battaglie portate dai cosi. Però volevo dire una cosa, la signora Binetti, che non so se è collegata. Sì, sì, la sente, la sente. Sono anni che promette, che minaccia le dimissioni di andarsene dal Partito Democratico. Io le dico, lei prenda la sua decisione, vada fuori dal Partito Democratico. Tanto il Partito Democratico, con la Binetti o senza Binetti, purtroppo perderà le elezioni per diversi anni, per colpe che hanno al loro interno. Allora, però non può continuare a minacciare le dimissioni e poi non darle. Le dia, buonanotte ai senatori, va con Rutelli o va con Casini e risolve il problema. Allora, onorevole Binetti, se ne va o no? Effettivamente no, non è la prima volta che lei dice esco o non esco. Dire brevemente tre cose. Attenzione anche che mettere tanto in evidenza la posizione della Bonino rispetto a situazioni che si sono verificate 30 anni fa, ai tempi della legge sull'aborto, peraltro faccio presente che loro persero il loro referendum perché loro volevano una legge sull'aborto molto più ampia. Comunque, questo per inciso, per dirlo a Staderini che prima parlava. Però le voglio dire che loro stanno attualmente facendo un'altra battaglia, altre due battaglie. Una è quella, come dimostra una serie di disegni di legge a loro firma presentati al Parlamento, pro eutanasia, schietti, diretti, immediati, pro eutanasia. Quindi non c'è solo la battaglia sul fine vita, sull'inizio della vita, c'è la battaglia sul fine vita, che è una battaglia che stiamo ancora facendo in discussione in questo momento alla Camera. Quindi voglio dire, non è una storia di un passato completamente rimosso, dimenticato, chiuso e legalizzato. Per questo diciamo che le loro battaglie per la legalizzazione, per la legalità, le fanno utilizzando anche l'antilegalità. Questo tanto per essere chiaro. Ma per questo lei dice, ma che ci fa lei nel partito, in questo partito candida la Bonino? Ma lo sa che cosa ci faccio? Io lo dico con molta semplicità. Io credevo, mi posso anch'io essere sbagliata come tutti quanti, e chiedo scusa a me stessa. Io credevo che il Partito Democratico fosse un partito che volesse fare sintesi tra una cultura a forte ispirazione, diciamo, cristiana, e una cultura a forte ispirazione, capisce, diciamo, che ne parla io anche al passato. Ma nessuno mi aveva detto, lei trae un, ma lei mi sta parlando al passato, c'è scritto che il Partito Democratico sarebbe diventato un partito a guida radicale. Ma lei ne sta parlando al passato. Credevo tragga le conseguenze, no? Esattamente, chi le dice che non gliele trarrò? Certo, c'è tutto uno, però le voglio dire che i fatti di questi giorni, ogni passaggio mostrano che nel Partito Democratico c'è una sorta di consegna a una ideologia di tipo radicale. Però, questo però non lo posso dire solo per me, sarebbe troppo poco. No, poi siccome devo andare da Staderini per chiudere per un minuto, devo dare anche lui la parola. Però Binetti, lei però dice trarrò le conseguenze, ma aspetta le elezioni, aspetta di vedere se la Bonino vince. Partito Democratico. Non ho perché capito. Magari hanno sconfitto Marino alle primarie, consegnando il partito a Bersani e quindi dicendo no alle posizioni più radicali, e adesso si trovano consegnati sia in Lombardia sia in Lazio e non so ancora a una guida radicale. Ma questo lo devono sapere tutti. Allora Staderini, le chiedo scusa, solo 30 secondi, ma diventa una PD a guida radicale, questa dice la Bonino e la Binetti, e non ero entrato nel partito per questo. Ma guardi, credo che chi è intervenuto, 3 ascoltatori su 3, hanno già detto tutto loro, hanno fatto capire come il problema non esiste. Se oggi i sondaggi danno al 51% l'Abbonino che batte la Polverini, vuol dire che questo problema dei cattolici, delle battaglie civili, non solo non esiste, ma è un elemento di forza. È appena iniziata la battaglia, stia attento, perché la campagna, la campagna, stiamo parlando di come, quanto vanno dicendo l'onorevole Binetti e il direttore Sechi, vale poco, anzi loro ne hanno una riprova. Io preferisco Giuliano Ferrara, che perlomeno dice non la sopporto la Bonino, invece l'onorevole Binetti, se uscisse dal PD non la intervisterebbe nessuno. Il diavolo. Mentre invece Libero, i dati che sono usciti l'altro giorno di come le vendite stanno calando, probabilmente sono anche conseguenza di queste politiche. In definitiva io credo il vissuto degli italiani è quello delle lotte sui diritti civili, del divorzio, dell'aborto, e oggi ancora sull'eutanasia e sulla pillola del giorno dopo sono con noi. Ecco, devo fermarmi qui e andassero un po' a guardare i contenuti di questa devo campagna. Fermarmi qui, grazie a tutti. Sara Sprafficchio in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo lunedì mattina.